Riflessioni della sera. Questo corpo è soggetto a malanni. Questo corpo è destinato ad ammalarsi. Questo corpo non è ancora andato oltre le malattie. Questo corpo è soggetto all'invecchiamento. Questo corpo non è ancora andato oltre l'invecchiamento. Questo corpo è ora in un processo di invecchiamento. Questo corpo è soggetto alla morte. Questo corpo non è ancora andato oltre la morte. Questo corpo morirà. Tuttavia, esiste uno stato di non nascita, non morte, non formato.